perché fa quel macello? Ho levato. Adrianella sarà quanta là? Che? Ti ho fatto le scavure a te. Dai. Dopo quanto ti arrivano però i vocali mio? Dopo che inizia il cerchio. Però ti sto dicendo, noi dobbiamo provare a usare solo questa applicazione. Cioè? Dobbiamo provare a comunicare e a connetterci e aspettate, parlare a comunicare con questa applicazione. Ah sì, però sai com'è, io faccio. No. Aspetta, fermati. No, con le cose insieme. Ho capito. Creeping. Avvia, mi senti? Di Windows in basso. Precetta e ti dovrebbe dare l'icona del microfono. Sì. Il microfono no, okay. Non me la dà. Me dà via Audio Tech, magari è quello, penso. Allora no, aspetta, eh. Prova a mettere personalizzato, c'è sta il microfono. Muta il microfono. Beh, le impostazioni, metto un microfono, sta roba qua. Ma non ti fischia più? No, per me è il telefono che sta avvicinaci. Però mi ha scritto Samar quanta you are clipping 0,13 decibel. Prova un po', uno sotto non sta a fare niente. Mi senti? E se mi avvicino comunque col telefono che dà fastidio. Sentimo? Che cazzo c'è il microfono sto coso? No, ma io ti sento, Ciro, la conversazione nostra si sente tutta. Ma in live o con qualche ritardo? No, con qualche ritardo. Vorrei capire, è soltanto per inviare dei cosi, dei... come cazzo si chiamano? Dei... Oh, con Netflix a private server potremmo fare, oh. Capito? Aspetta. Sì. batteria di Tolons è quasi scarica. Sì, 5%. Looper, recording, plugins, MIDI, audio. Forse lo fermavo un'altra applicazione, sì. Boh, per quanto precio. Pure a me. Senti, ma apri un attimo la roba di dai. Come tocca carica? Blah.